24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui, cari ascoltatori, alle 7:19 minuti. Eccoci, buongiorno anche al nostro Peter Bescapè in regia. Siamo in diretta fino alle 9 con anche la nostra pagina 24 mattino su Facebook, che è già attiva con tutti i vostri contatti. E di cosa parleremo più avanti? Beh, certamente parleremo della situazione dell'Italia declassata. Avremo ospite il ministro Fitto alle 8:20 per parlare della decisione di Standard & Poor's declassare l'Italia, le polemiche politiche, un momento politicamente certamente di svolta, qualcuno dice drammatico. Parleremo anche di questa decisione, non nuova per la verità, ma rispuntano con la ripresa della scuola questi casi, in questo caso in provincia di Milano, di bambini che sono stati lasciati non a digiuno ma con un pasto ridotto perché i genitori non pagano la retta della mensa scolastica. Di questo ne parleremo alle 8:30, ma come al solito andiamo a vedere che cosa ci propongono ora i giornali in edicola. È mercoledì 21 settembre e le aperture sono di due tipi sulla situazione politica dopo la decisione di Standard & Poor's di declassare il rating dell'Italia e la vicenda giudiziaria che coinvolge il premier Berlusconi come presunta vittima di un'estorsione. Vediamo allora i titoli per il Sole 24 Ore: Italia declassata, emergenza crescita. Per il Corriere della Sera: il governo sotto assedio. Repubblica: Italia declassata, via Berlusconi. Confindustria: il governo a casa. Per la Stampa: triplo allarme per l'Italia. Il Messaggero: crisi, ultimatum al governo. Mentre invece sulla situazione dell'inchiesta a Napoli, con il GIP che ha detto bisogna trasferire tutto a Roma sulla presunta estorsione ai danni del premier, titolano il giornale: Woodcock ha fallito. Questo è il titolo d'apertura. Mentre Libero: ora chi paga? Silvio sputtanato da PM incompetenti. Per il Fatto Quotidiano: lo scaricano tutti, anche il maggiordomo. Berlusconi prese i telefonini esteri di La Vitola e disse: roba da mafiosi. Questi sono alcuni dei titoli di apertura, ne vedremo altri magari nel corso della rassegna stampa. Intanto le storie da cui voglio partire sono così curiose, spassose, una forse anche falsa, ma viene accreditata da tutti i giornali e quindi la darò perché mi ha incuriosito. La prima, proviene da Venezia, dove una famiglia disperata, non ce la fanno più di avere un figlio di 41 anni che ha un lavoro ma rimane a casa, non abbandona il tetto di casa, non abbandona il divano e ha anche delle pretese: la cameretta sempre in ordine, la biancheria stirata, il piatto e la cena pronti alla sera. Insomma, questi due genitori non ce la facevano più di questo bamboccione, si sono rivolti ad una associazione di consumatori che con tanto di avvocato ha denunciato il giovane. Devi andartene di casa. I genitori in tribunale contro il bamboccione a Venezia. 41 anni. Gli hanno intimato ai 10 giorni per fare le valigie e smammare. Anche Libero vi dedica una pagina. In casa a 41 anni, i genitori lo denunciano, mentre prima ho letto il titolo di Repubblica. Esigente, aggressivo, con un lavoro fisso, ma non lascia il divano. E mamma e papà chiamano l'avvocato. Tra l'altro il Secolo XIX racconta nelle pieghe di questa storia una storia nella storia. Cioè l'avvocato dell'associazione consumatori, Andrea Campi, civilista, in questa intervista a Patrizia Albanese del Secolo XIX esordisce così: veramente, a dirla tutta, sono un bamboccione anch'io. Ho 39 anni, ma sto a casa coi miei. Ma come? Cioè lei sfratta o vuole sfrattare un suo collega di vita, insomma un bamboccione come lei. Ebbene, ma che c'entra? Ogni caso è diverso dall'altro, ovviamente. E per cui l'intervista all'avvocato, che doveva diventare un'intervista sul perché vogliono fare uscire di casa questo bamboccione, diventa un'intervista all'avvocato che si è autodefinito bamboccione. Ma dice: ma come? Ma lei è un bamboccione anche lei? Ebbene sì, vivo coi miei, non mi impedisce tutto questo di avere una vita privata, ogni tanto dormo fuori casa, sto bene, le confesso, sto a casa dei miei genitori. Tanto che l'avvocato alla fine dell'intervista dice: scusate, ma mi avete chiamato per capire perché vogliamo far sfrattare questo bamboccione? Ma l'intervista diventa un'intervista surreale nella quale il protagonista è l'avvocato. Veramente, a dirla tutta, sono un bamboccione anch'io. Vabbè, questa storia proviene da Venezia, mentre un'altra storia proviene dalla Puglia, da Monopoli, dove, insomma, intanto, premessa, io ho un sogno, insomma, è una cosa che ho sempre desiderato vedere nella vita. Capisco che è un po' crudele, un po' poco rispettoso magari, ma chi di voi non ha mai pensato di andare a un matrimonio e nel momento in cui c'è il pronunciamento del fatidico sì, uno dei due coniugi dice no? Beh, son momenti certamente drammatici per chi li vive, ma vuoi assistere a una scena del genere, no? Anche Peter Bescapè sorride e dice anch'io vorrei vedere prima o poi. Siamo poco rispettosi nei confronti di chi si sta per sposare, no? Vabbè, insomma, sta di fatto che a Monopoli, in Puglia, pare sia successo questo. La notizia, secondo me, puzza un po' di una bufala. Comunque, il giornale vi fa una pagina. Mi tradisce, molla la sposa sull'altare. Al prete che gli chiede, ma come? Cioè, lo sposo dice, no, non voglio sposare. Vuoi tu? No. Al che il prete dice, scusi, figliuolo, ci può spiegare davanti a tutti in chiesa il perché, tra il brusio della gente? Chiedete alla sposa e al suo testimone il perché non mi sposo più. E al che il brusio è diventato uno scandalo, ovviamente. Perché è una bufala? Io, a parte che il sacerdote della parrocchia di Monopoli ha smentito tutto, non è vero, non è mai accaduto nulla del genere, però si sa, magari vuole tutelare le famiglie. Lo stesso sindaco dice io non ne so nulla, ma per carità, magari omertà in nome di già del dramma sentimentale vissuto dai due quasi sposi. Sta di fatto che viene raccontato da tutti i giornali, come dire, prima viene chiesto alla sposa ti vuoi sposare, lei dice sì, e poi è lo sposo che dice no. Ma io ho sempre saputo, insomma, che prima si chiede allo sposo, quindi già questa cosa un po' puzza di bufala. In ogni caso, al prete che gli chiede il perché del rifiuto, il fidanzato risponde domandatelo a lei e al testimone. E poi pare che abbia detto comunque a tutti i suoi invitati, quelli della sua parte, state pure qui, la festa la facciamo per il mio reingresso nel celibato. Vabbè, se è vera la notizia, almeno l'ha presa bene. 24 mattino. Quando sono le 7:33 minuti, allora ci vogliamo concentrare sulle notizie, ovviamente ben più serie rispetto a quelle che ho letto in apertura, giusto per iniziare un po' col sorriso sulle labbra, a parte gli sposi che sull'altare uno dei due ha detto no. Se è vera la notizia, ricordiamolo. Allora, come detto, sono due le notizie principali, quella del declassamento di Standard & Poor's e tutto il putiferio politico che ne è conseguito. È un momento politico certamente di snodo per molti della legislatura, e la vicenda ancora delle inchieste di Napoli, in questo caso con il presunto estorto premier Silvio Berlusconi. L'inchiesta verrà spostata a Roma. Allora, come detto, il Sole 24 Ore apre sull'Italia declassata, emergenza crescita. Il Standard & Poor's ha spiegato il taglio del rating dell'Italia dalla A più alla A, inevitabile nel momento in cui Standard & Poor's ha dimezzato le previsioni sulla crescita italiana tra il 2011 e 2014, abbattendole pesantemente da una media dell'1,3% all'attuale 0,7%, insomma una riduzione dello 0,6%, così racconta Isabella Bufacchi a pagina 3 del Sole 24 Ore. E ovviamente sappiamo c'è stata la reazione politica da parte del governo, a partire dal premier, giudizio politico. Per la verità, oggi anche due ministri, prima il ministro Frattini degli Esteri, in un'intervista al Corriere della Sera, pagina 11, intervistato da Maurizio Caprara, dice è stata un'altra decisione compiuta con valutazioni politiche. Poi è molto critico Frattini, dice è necessaria una rilettura sul ruolo di queste agenzie, addirittura in Italia sono sotto inchiesta penale per valutare se dietro certi comportamenti non vi siano conflitti di interesse. I magistrati hanno ascoltato anche me. Le valutazioni sulla solidità di un governo derivano da elementi che non conosciamo. Quali? Chiede il ministro Frattini. Se ci fossero interessi dietro le agenzie di rating, il problema non si risolverebbe come caso giudiziario, ma si farebbe luce su tante domande prive di risposta. Poi, per la verità, Frattini, analizzando la situazione politica difficile, offre un armistizio a un'opposizione responsabile. Quando si parla di possibile crisi di governo, Dice Frattini: non ce l'ho con tutta l'opposizione. Casini dichiara che Berlusconi se ne deve andare, ma anche che va individuata una strada di fine legislatura garantendo a chi vinse le elezioni di governare. Non propone elezioni anticipate né ribaltoni. Io ce l'ho con chi sostiene Berlusconi si deve dimettere, punto e basta. L'attuale governo, dice il ministro Frattini, offre un armistizio all'opposizione responsabile. Definiamo insieme ciò che serve al bene del paese. Chissà se è un ponte, diciamo, per cercare di uscire dall'impasse politica. Mentre il ministro La Russa, dicevo, due ministri, il ministro La Russa, intervistato dal Messaggero a pagina 7, anche lui rincara la dose sulla questione della decisione politica. Mi ricordano tanto la stampa estera, dice La Russa di Standard & Poor's. Prego, ministro? Beh, mi ricordano i giudizi di giornalisti esteri quando parlano di Berlusconi prendendo le notizie dai quotidiani nostrani di estrema sinistra. Sono valutazioni politiche. Questo il ministro La Russa. Insomma, vedete, il governo con due ministri risponde in maniera compatta sulla questione Standard & Poor's. Noi ne parleremo, come detto, alle 8:20 con un ministro, anche noi, il ministro Fitto, nostro ospite. Sta di fatto che ieri, per il terzo giorno consecutivo e questa volta con un tono anche più duro, Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, è tornata su questo punto e questa volta ha detto: il governo vara le riforme serie nell'immediato, domani, nei prossimi giorni, oppure deve andare a casa. Non ho paura a dirlo, è evidente che è così. E infatti, diciamo, questo sfogo viene ripreso e messo in prima pagina anche da giornali come Repubblica, che scrive: Confindustria, il governo deve andarsene. E c'è da dire che ci sono vari commenti, vari editoriali di direttori o di commentatori. Ne leggo tre che sono presi dal Sole 24 Ore, il Corriere della Sera e Avvenire, che sono abbastanza in sintonia su questo punto di vista. Il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, nel suo editoriale "Signor Presidente, l'Italia prima di tutto", si rivolge al Premier. Il Premier è il gesto necessario, scrive Napoletano. La credibilità del paese in questo momento è un bene troppo importante per essere sacrificato sull'altare di qualsiasi calcolo politico o peggio personale, ancorché legittimi. L'interesse generale viene prima di quello individuale. Il Presidente del Consiglio dimostri di amare davvero l'Italia, di avere di conseguenza la forza e la volontà di farsi da parte, se è costretto, come tutto rende evidente, a prendere atto che non riesce a fare quello che serve. Lo faccia nell'interesse del Paese, si comporti da uomo di Stato e da uomo dell'economia. Dopo la Grecia, signor Presidente, non ci può essere l'Italia. Mai e poi mai, per una volta, non si giri dall'altra parte. Si ricordi che grandi responsabilità impongono anche grandi sacrifici. Sappiamo che le costerà, ma sappia pure che la storia, dopo questo gesto, saprà fare i conti giusti. Insomma, l'invito da parte del direttore del Sole 24 Ore è esplicito. Caro Presidente, si faccia da parte. Anche Sergio Romano, in prima pagina del Corriere della Sera, il titolo è "Una possibile soluzione, l'uscita di scena del Premier". La speranza si è dissolta sotto il peso di una micidiale combinazione di promesse non mantenute, incidenti di percorsi, scandali, comportamenti indecorosi e sorprendenti imprudenze. Oggi il maggior problema italiano è la fine dell'era Berlusconi, scrive Sergio Romano. Tutti, anche i migliori tra i suoi amici, sanno che l'era è finita e che Berlusconi deve uscire di scena, ma non vi è un accordo sul modo in cui voltare pagina. E poi sulla possibile uscita di scena del Premier, Romano scrive più avanti nel suo editoriale: i vantaggi per l'Italia sarebbero considerevoli, daremmo all'Europa e al mondo lo spettacolo di un paese che è capace di organizzare razionalmente il proprio futuro, magari cambiando una pessima legge elettorale. Restituiremmo la parola a un'opinione pubblica che oggi può soltanto manifestare rabbia e insofferenza, daremmo ai partiti il tempo di prepararsi al confronto elettorale. Romano dice: Berlusconi dovrebbe farsi da parte e annunciare che lui non si candiderà più e ci saranno elezioni anticipate nel 2012. E anche su Avvenire, il direttore Marco Tarquinio, nel suo editoriale dal titolo "Disinteresse e coraggio": tutti hanno ormai capito, scrive, che siamo in un duro e inevitabile passaggio della vita nazionale, reso più complicato dall'inesorabile e progressivo consumarsi di una stagione politica. Al culmine di una crisi di fiducia senza precedenti nei confronti della classe politica e dirigente, che coincide con i giudizi sferzanti e anche ingenerosi che ci piovono addosso, I politici hanno l'occasione di dimostrare che stanno con l'Italia che è in A, che sono davvero al servizio di quell'Italia, anche se troppo, quasi tutto, sembra congiurare contro il momento delle convergenze possibili, delle priorità chiare, delle scelte trasparenti, delle proposte pulite. E insomma, vedete, è un fuoco di fila, ho letto tre giornali, insomma, non ho letto gli editoriali di giornali che sono abitualmente, diciamo, schierati su una posizione politica contro il governo. Sta di fatto che la situazione per Berlusconi, scrivono i giornali, per esempio Repubblica, è quella di tenere duro. E tra l'altro rispunta questa famosa parola che ogni tanto rispunta in Italia, no? Si sa, il complotto, il cavaliere ora ha paura, c'è un complotto, così reagisce secondo Libero Salvatore Dama, pagina 6, PM, gruppi editoriali e Confindustria hanno un piano per farmi cadere. Il complotto. E anche per Repubblica il cavaliere si chiude nel bunker, contro di me certi poteri anglofoni, circoli anglofoni che avrebbero interesse a speculare sul fallimento dell'euro. Quindi circoli anglofoni e complottone, questa diciamo è la versione per quel che riguarda la difesa. Certo, è un momento di grave difficoltà, da ieri alcuni ministri, il ministro Tremonti in soprattutto, ma anche Matteoli e Calderoli hanno incontrato Confindustria e le banche, le imprese e le banche, si è annunciato questo piano che per la verità è un piano annunciato da Tremonti a costo zero per la crescita, si torna a parlare, scrive Repubblica a pagina 6, di una patrimoniale che è l'oggetto forse sul quale si concentrano più le attenzioni, si ritorna a parlare delle pensioni ma Tremonti fa capire che non è forse il momento né di toccare le pensioni né di fare piani di liberalizzazioni. La versione del ministro dell'economia è questa: non dobbiamo farci trascinare come schiavi dietro al carro del libero mercato e non è il caso di farsi prendere da immediatismo e catastrofismo. E dunque anche per la stampa Alessandro Barbera, Tremonti non rischia nel nuovo decreto solo riforme a costo zero, tanto che il manifesto a pagina 2-3 la definisce così, sotto una dicitura riforme, l'ultima idea di Tremonti, il disperato tentativo di presentare un pacchetto per la crescita già domani per accogliere alcune delle richieste di Confindustria. È proprio questa, l'ultima idea di Tremonti a costo zero. In questo balam politico c'è il capo dello Stato che richiama Bossi, sta di fatto, perché ha parlato il capo dello Stato Napolitano di chi agita la bandiera della secessione, significa che si pone fuori dalla storia, della realtà, indispensabile impegno comune per far fronte alla situazione. Sta di fatto che la Lega è, dicono così i giornali, un po' in subbuglio, anche perché domani si vota alla Camera sulla richiesta d'arresto per l'onorevole Milanese, ex collaboratore di Tremonti, e qui la Lega, insomma, il voto sarà segreto, è per molti uno snodo, come poteva essere quello della richiesta d'arresto per l'onorevole Papa della legislatura, anche perché insomma con Standard & Poor's che ci declassa, le inchieste che coinvolgono le intercettazioni, le inchieste che coinvolgono il Presidente del Consiglio, ecco che certamente c'è da temere, insomma, per questo passaggio politico. La risposta della Padania però, e dunque dell'organo della Lega, è questo, in qualche modo all'appello di Napolitano: si salvi chi può, la Padania può. Questo è il titolo di prima pagina. Allora, invece la questione della vicenda giudiziaria di Napoli, beh, certo, fa segnare un passaggio decisivo, perché ieri il GIP di Napoli, che doveva decidere sulla scarcerazione di Tarantini, ha detto: non siamo competenti. No, noi a Napoli non siamo competenti, tutto deve essere trasferito a Roma. Perché? Perché basandosi sul celebre memoriale spedito da Berlusconi alla Procura di Napoli, i pagamenti destinati alla Vitola e a Tarantini, vale a dire coloro che avrebbero messo in piedi una presunta estorsione ai danni del Premier, erano stati fatti a Roma, Palazzo Grazioli, residenza del presidente Berlusconi, e quindi si è confermato nella memoria depositata che le somme di denaro sono state passate a Roma e dunque la competenza va a Roma. Napoli incompetente sul cavaliere, ovviamente sia il giornale che Libero puntano molto su questa notizia per dire il giornale in prima pagina, Woodcock ha fallito, con il direttore Alessandro Sallusti che si chiede adesso chi paga. Il duo Woodcock-Lepore non aveva titolo per indagare sul trio Berlusconi-Tarantini-La Vitola. La marea di telefonate spiate, sbobinate, consegnate ai giornali sono frutto di un'illegalità. Scrive Sallusti, in realtà le telefonate vengono dalla vicenda di Bari, le 100.000 telefonate, che è un'altra vicenda. Comunque anche Libero, Silvio sputtanato da PM incompetenti. Tra l'altro, secondo il retroscena di Amedeo La Mattina sulla Stampa, Berlusconi avrebbe confessato: ve lo avevo detto, quando c'è di mezzo Woodcock, questi specialisti del complotto politico non ne azzeccano una. Che figuraccia questi magistrati. Sta di fatto che parallelamente continuano a uscire notizie dai verbali degli interrogatori di questa inchiesta sulla presunta estorsione. Beh, certo, oggi ha molto risalto questa frase sui giornali che viene pronunciata dal maggiordomo di Silvio Berlusconi, Alfredo Pezzotti, che è stato interrogato. Ha raccontato, insomma, il rapporto, il fatto che spesso andava a prendere delle lettere o ha consegnato anche qualcosa alla moglie di Tarantini. Ma poi, ecco, questa vicenda che è descritta così nell'interrogatorio. La Vitola un giorno mi mandò un suo collaboratore per consegnarmi 3 telefoni con utenze straniere. Mi spiegò che era necessario che il presidente le utilizzasse per parlare con lui che si trovava all'estero. 2 o 3 giorni dopo, alla presenza del presidente Berlusconi, composi il numero di La Vitola e passai la comunicazione al presidente. Informato da me che La Vitola mi aveva fatto consegnare telefoni, appunto, con utenze straniere, mi apparve Berlusconi molto seccato di questa modalità e, se non ricordo male, mi disse: queste cose le fanno i mafiosi. E capite che questa frase riportata dal maggiordomo viene da spunto per fare vari titoli. Il Corriere a pagina 15: il cavaliere usava cellulari stranieri ma disse seccato, così fanno i mafiosi. Così anche il Fatto Quotidiano lo mette in prima pagina, lo scaricano tutti, anche il maggiordomo. Berlusconi prese i telefonini esteri di La Vitola e disse: roba da mafiosi. Poi c'è anche nell'interrogatorio Ghedini, l'avvocato del premier, che dice: quando comunicai alla Vitola, per il quale c'era un parere nettissimo negativo, che non sarebbe stato candidato nelle liste elettorali, lui andò nell'ufficio della segretaria del presidente, Marinella Brambilla, e rivolse minacce di tipo fisico all'indirizzo di Ghedini. Mi sono limitato a esprimere un parere e adesso dice di volermi bastonare fisicamente. Così il titolo anche qui: Ghedini, mi opposi alla Vitola e lui voleva bastonarmi. Insomma, le vicende giudiziarie sono anche queste. Domani, come detto, il voto sull'onorevole Milanese, sulla richiesta di arresto. Tra l'altro, dal carcere si fa, questo fa sapere il Secolo XIX, c'è un altro onorevole, sapete, Papa, per il quale è stato votato di recente l'arresto e appoggio reale da ormai diversi giorni. E racconta Francesco Bonazzi sul Secolo XIX: Papa come Don Raffaè, riceve detenuti e dà consigli. C'è chi gli chiede se la carcerazione preventiva poi si sconta davvero nella condanna, c'è chi vuole calcolare il fine pena, c'è l'extracomunitario che gli chiede la differenza tra un GIP e un PM, vuole sapere se i primi siano davvero più buoni dei secondi, c'è chi gli chiede se abbia notizie riservate su indulti o amnistie in arrivo alla Camera. Insomma, in questi 2 mesi a Poggio Reale l'onorevole Papa è diventato una sorta di nuovo Don Raffaè, racconta il Secolo XIX, nonostante nelle regole del carcere gli infami siano considerati i pedofili, i poliziotti e anche i magistrati. Lui è stato magistrato. In realtà Alfonso Papa, racconta il Secolo XIX, si è guadagnato la stima dei colleghi carcerati. Vabbè, voglio chiudere con 2 segnalazioni. La prima è un'intervista che, per la verità, è su Vanity Fair, ma è diventata anche una pagina della Stampa. Non ero la moglie di Bonatti e mi hanno cacciata dall'ospedale, racconta Rossana Podestà, compagna per 30 anni dell'alpinista. Questo è uno scandalo tipicamente nostro, ipocrita italiano, aggiungo io. Racconta che è stata cacciata dall'ospedale dove il grande alpinista Walter Bonatti è scomparso il 14 settembre a Roma. Non vuole dire l'ospedale in questa intervista a Vanity Fair, ma dice: mi hanno cacciata dicendo Lei non è la moglie, non può stare qui. L'ultimo grande mio dolore. Non ero la moglie di Bonatti, mi hanno cacciata dall'ospedale. Ripeto, oggi la stampa riprende questa intervista pubblicata sul settimanale Vanity Fair. 24 mattino. Allora, ben ritrovati da Alessandro Milan in diretta. Eccoci qua, le 8:21 minuti. Vogliamo parlare intanto dell'attualità politica, insomma, all'indomani del declassamento di Standard & Poor's. Lo facciamo con un ministro, il ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto. Ministro, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Senta, anche per lei è una decisione politica, come hanno detto un po' tutti i rappresentanti di governo, a cominciare dal premier Berlusconi, quella di Standard & Poor's? Guardi, non è che lo dico per una ragione politica del momento, lo dico perché il rapporto indica questo. Spiega in modo molto chiaro che il declassamento si fonda su due elementi di fondo tenuti in considerazione. Il primo è di carattere politico, il secondo è collegato al tema del debito pubblico. E ci spiega anche il rapporto, leggendolo nel dettaglio, ci spiega anche le ragioni per le quali vi è stato questo declassamento per le questioni politiche. Ora, è evidente che se è legittimo che una società di rating indichi una ragione politica esprimendo una sua valutazione dopo che il governo la settimana scorsa ha ottenuto la fiducia alla Camera, è legittimo anche che la politica possa rispondere in modo altrettanto deciso. Detto questo, lo dico non per polemica, ma sicuramente il giudizio di Standard & Poor's è un giudizio importante da tenere in conto, però mi sembra che negli ultimi 10 anni e soprattutto negli ultimi 2 o 3 i giudizi espressi su importanti società, cito la nostra Parma, potremmo citare la Lehman Brothers e altre, ci furono degli errori. A distanza di pochi mesi ci sono stati degli errori, direi, clamorosi. Però, ministro, rispetto, voglio dire, però insomma, queste cose vanno tenute nella giusta. Però, ministro, lei ha detto la fiducia ottenuta, ma non è un momento, tutti i segnali parlano di indebolimento in questo momento dell'azione di governo, di indebolimento della politica, cioè è da pazzi descrivere l'Italia in questo momento così? C'è una chiara azione mirata a mettere in difficoltà il governo. Detto questo, se l'elemento di fondo da parte delle opposizioni, da parte Le opposizioni fanno il loro lavoro. Ma per carità, da parte anche di un'azione che non fa bene al nostro paese. Ieri tenga conto che, come è noto, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale della Procura di Napoli, che tanto danno ha fatto con la sua indagine che non doveva fare. Cioè i magistrati, quindi una parte della magistratura fa un'azione. Una piccola parte della magistratura, in questo caso la Procura di Napoli, ha fatto un'indagine rendendo pubbliche tutte le telefonate che non hanno alcun valore di carattere penale, mandandole in giro per il mondo, e non doveva e non poteva farlo. Per la verità, quelle sono di Bari, però, cioè della Procura di Bari. No, prima di quelle di Bari sono uscite quelle di Napoli, andiamo per ordine. Quelle di Bari sono un altro tema di riflessione. 8 indagati e il Presidente del Consiglio non è indagato, ma le telefonate intercettate e pubblicate alla fine sono quelle del Presidente del Consiglio. Quindi diciamo delle indagini che appaiono più che indagini di carattere penale con una finalizzazione tesa all'accertamento del reato, appaiono invece degli strumenti utili per pubblicare delle intercettazioni che poi hanno un problema, perché vanno su tutti i giornali del mondo e quindi sicuramente non aiutano il lavoro in una fase così complessa qual è quella che stiamo però vedendo. Ministro, sulle intercettazioni si può discutere sul fatto appunto pubblicabile o no, ci sono sicuramente, io lo dico da giorni, delle frasi che non devono uscire, che entrano nella sfera privata, ma una volta che sono uscite le chiedo proprio all'interno della coalizione, ma davvero non creano un imbarazzo, una situazione di dire beh, ma insomma emerge uno spaccato? Ognuno ha le sue valutazioni sul suo privato. Detto questo, la storia ci insegna che fatte 100.000 intercettazioni, se se ne pescano 50, le si articolano bene, si perde il senso, il significato e soprattutto si attribuisce un valore completamente differente. Sarebbe il caso di avere una visione completa di queste intercettazioni e cogliere anche il significato, il momento e anche le modalità con le quali vengono fatte, per coglierne anche un po' quello che si vuol dire con questo tipo di discorso. Ma per esempio oggi sui giudici... Io le assicuro che se, con tutto il rispetto mio e suo, di chiunque ci ascolti, se a fine serata io le stampassi su un foglio tutto quello che lei ha detto quotidianamente al suo cellulare, probabilmente lei ci rifletterebbe un po' sulla sua giornata e soprattutto sarebbe molto arrabbiato, tanto quanto oggi siamo arrabbiati noi che protestiamo per questo metodo da barbaglie che sicuramente è incivile. Un metodo da barbaglie. Però le chiedo, per esempio, oggi emerge che Berlusconi ha usato, da un interrogatorio del suo maggiordomo, delle utenze straniere e avrebbe anche commentato, secondo il maggiordomo, ma queste cose le fanno i mafiosi, cioè sono robe da mafiosi, parlando con la Vitola. Su questo, per esempio, Giuliano Ferrara ha detto, ma chieda scusa, un presidente del Consiglio che usa utenze straniere per non essere intercettato non è normale. Guardi, è un condizionamento indiretto del clima assurdo che si ha per non poter parlare al telefono e questo sinceramente è un problema. Io penso che sia un problema il fatto che in un paese civile il Presidente del Consiglio non possa parlare liberamente al telefono. Questo è il tema di cui noi dobbiamo preoccuparci. Dobbiamo farlo perché ci sono alcune considerazioni che, dato il momento, passano in secondo piano. La prima è quella collegata alle modalità di queste intercettazioni, nel senso che le ho appena indicato il caso di Napoli, se c'è una incompetenza territoriale evidentemente l'intera indagine non doveva partire e se questa incompetenza territoriale è sancita oggi da una decisione del magistrato, ieri da un dato evidente, qualsiasi ipotesi di reato non era stata compiuta in alcun modo nel distretto di Napoli. Ora, partire lo stesso con un'indagine, farlo dopo aver fatto in passato, negli anni scorsi, analoghi errori, arrestare delle persone che non dovevano essere arrestate visto l'incompetenza territoriale e quindi non doveva svolgersi l'indagine, e oggi ritrovarsi a dire vabbè, andiamo avanti, è come se nulla fosse, magari fra sei mesi o un anno ritroveremo gli stessi protagonisti che due o tre anni fa hanno fatto le stesse cose in altra regione, che oggi le fanno a Napoli e domani le faranno Chi ce l'ha con Woodco? Che ce l'ha? No. Ma sono dati oggettivi che sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti. Però io penso che questo sistema meriterebbe più di qualche riflessione, perché sicuramente un governo può andare a casa perché lo decidono gli elettori o perché lo decide il Parlamento, non perché lo decide un'azione mediatico-giudiziaria finalizzata ad aggredire il Presidente del Consiglio o il Governo. Ho due domande flash, Ministro. Il complotto, pare che spunti questa parola nei pensieri di Berlusconi. Secondo lei è un complotto e se sì di chi? Perché sa, dire complotto poi... Io vedo una azione finalizzata sempre con maggiore decisione ad andare in una direzione che è quella di superare questo Governo. È una strategia politica che direttamente noi combattiamo e per la quale ci confronteremo. Ma di chi? Cioè, perché le opposizioni fanno l'opposizione, di chi? Cioè, una strategia, alcuni magistrati. Sicuramente quello che sta accadendo, secondo il mio punto di vista, mette in fila una serie di cose che non vanno bene. Se queste sono raccordate, non lo so, lo verificheremo. Certamente il prezzo della pubblicazione delle intercettazioni è un tema ed è un contributo in questo momento che va nella direzione generale e che sicuramente non va bene. E un'ultima domanda flash, anche Casini ieri ha detto, ma insomma faccio un appello agli uomini e alle donne del PDL, di buona volontà così li ha chiamati, cioè a dire, e molti commentatori oggi, guardi Sergio Romano sul prima pagina del Corriere, il direttore del Sole 24 Ore Napoletano, il direttore di Avvenire Tarquinio, a dire, ma non vi accorgete che l'epoca Berlusconi politica sta finendo ed è finita e forse non è in grado di... Insomma, è il momento di dirglielo. Sono legittime opinioni. Io penso che l'UDC abbia la possibilità con noi, con il tempo, di costruire un percorso comune. Non è un qualcosa che si può realizzare domani mattina, né qualcosa che riguarda l'azione dell'attuale governo. Abbiamo valori comuni, un'appartenenza comune nella casa del Partito Popolare Europeo. Abbiamo la possibilità con il tempo di costruire un percorso che possa trovare delle sinergie e delle sintonie. Però non è il caso che Berlusconi faccia un passo indietro. Lo verificheremo, ma io penso che questo sia un argomento che viene riproposto soprattutto in assenza di un'alternativa, perché io leggo nelle attuali opposizioni ipotesi che vanno dalle elezioni al governo tecnico al governo di larghe intese. Se è vero quello che dice Standard & Poor's sulla situazione politica, io non ne sono convinto assolutamente, ma se dovesse essere vero rischierebbe di essere ancora più vero nel momento in cui magari ci ritrovassimo in un contesto nel quale non ci sarebbe sì, una base da tale da garantire poi non le scelte che sono indicate all'interno del rapporto. Va bene, intanto la ringrazio, Ministro, per essere stato con noi, il Ministro Raffaele Fitto, per i rapporti con le regioni. Allora, noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità e meteo e poi parliamo di una vicenda che per la verità anche l'anno scorso era emersa, ma ritorna, una scuola elementare in provincia di Milano. Il sindaco ha detto ci sono delle famiglie che non pagano le rette della mensa scolastica e ha messo, io dico a pane e acqua, diciamo, a pane, a panino e succo i bambini delle famiglie morose che non pagano. Ah, si è scatenata subito la polemica. Vi ricordate l'anno scorso il sindaco di Adro della Lega? 24 mattino. Allora, le 8:37 minuti sui giornali è finita così. I genitori non pagano la retta della mensa scolastica e alcuni bambini delle scuole elementari di Cesate si ritrovano con un panino e un succo anziché il pasto come gli altri compagni. Perché estrema soluzione per contrastare le famiglie morose, le famiglie che non pagano la mensa scolastica e magari hanno pure i soldi. Ci risiamo, verrebbe da dire. Vi ricordate l'anno scorso il caso di Adro, ma non solo quello. Intanto saluto Silvia Ballestra, buongiorno, scrittrice, giornalista. Ballestra, ci risiamo, eh? Buongiorno, sì, ci risiamo, stavolta da territori in qualche modo inaspettati. E infatti le voglio presentare il sindaco di Cesate, Roberto Della Rovere, anche ai nostri ascoltatori. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Si dice inaspettati perché, Ballestra, perché è un sindaco, Della Rovere, lei è del Partito Democratico? Sì, io sono del Partito Democratico con una giunta di centrosinistra. Perfetto, Ballestra, questa decisione da un sindaco di sinistra la sconvolge di più? Beh, sconvolge no, mi amareggia molto perché vuol dire che non si impara mai nulla e siccome poi ci sono dei precedenti di cui si è discusso a lungo che hanno suscitato appunto proteste e scandali anche con forza dalla parte politica del sindaco che invece oggi è in questione, insomma viene da dire... Come mai? Non hanno letto i giornali, non hanno fatto non hanno abbastanza studiato. E chi lo sa, glielo chiediamo. Sindaco, intanto ci spieghi, ci sono delle famiglie che non pagano la mensa, e nonostante ciò hanno i soldi, nonostante abbiano i soldi, no? Questo mi pare di capire. Allora, riprendo un concetto della dottoressa Ballestra, forse non hanno studiato abbastanza, è vero. Ma qui il problema di fondo è di altro genere, di altra natura. Noi siamo partiti con un'insolvenza a metà marzo dell'anno scorso di 300 casi, sì, per un totale all'incirca di 70.000 euro. Allora, non è che ci siamo inventati questa cosa una mattina perché c'era il tempo nuvoloso, abbiamo fatto un percorso che è durato un anno. Qui stiamo parlando di insolvenza del 2010, eh? Sì, sì, insolvenza genere, non pagare la che tra l'altro quanto costa la tassa, giusto perché così capiamo. Allora, ci sono diverse fasce, sì, mediamente quella massima costa 4.2 euro al giorno. Però sono previste anche fasce di gratuità, riduzione al 25%, riduzione al 50%. Vabbè, diciamo però una media di 4 euro, 4 sì, euro al giorno, la più alta, insomma, quindi uno potrebbe spendere 20 euro a settimana per 5 esatto, giorni, quindi si parla di 800 euro all'anno. Noi abbiamo un appalto qualità, e attenzione, la cifra non è poca perché abbiamo un appalto qualità, abbiamo scelto di fare un appalto qualità per i bambini. Vabbè, diciamo, comunque 800 euro all'anno, molte famiglie non pagano. Voi che avete fatto? Li avete scritto, li avete detto noi care famiglie? Fatto la procedura che è prevista per recuperare l'insolvenza, quindi sono stati prima avvisati via SMS, più volte sollecitati, poi sono arrivate le lettere, dopodiché abbiamo chiamato personalmente genitore per genitore insolvente, abbiamo mandato a questo punto delle raccomandate, sì, e quindi visto che all'inizio di quest'anno molti genitori non avevano ancora saldato il debito, abbiamo comunicato loro che in base al fatto che il servizio di mensa è un servizio a domanda individuale, sì, quindi non è un servizio obbligatorio, sì, abbiamo detto loro guardate che se non chiudete questa situazione dell'insolvenza noi non possiamo iscrivere i vostri figli al servizio mensa. Solo che alla fine, sindaco, siete arrivati, per abbreviare, all'estrema razio, a dire per i più duri di comprendonio è successo, certo, che per due giorni avete dato ai bambini cosa, un panino e un allora, succo invece la cosa ha coinvolto 6 6 bambini in totale. E cosa hanno preso? Dei quali il giorno dopo, anzi lo stesso giorno, hanno saldato il debito. Quindi non è che non avessero i soldi per saldare il debito. Forse era, è stata, diciamo che è stata una dimenticanza. Ma cosa hanno preso? Panino e succo invece? Il pasto alternativo prevedeva un panino imbottito, un succo di frutta e una mezza minerale. Si fermi qui. Allora, la descrizione finora, Silvia Ballestra, che considerazione le fa fare? Intanto c'è un sindaco che dice: io i soldi li devo recuperare. Poi con i tagli agli enti locali, insomma. Dopo mi spiegherà il sindaco come fa a recuperare i soldi quando, per esempio, delle famiglie o delle persone non pagano la tassa sulla spazzatura, la TARSU. Voglio sapere che fa. Che fa? Sospende il servizio e quindi non ritira più la spazzatura, oppure va per altre vie, procede per le vie solite che conosciamo tutti quando non si paga una multa, perché la sospensione del servizio sì è una strada possibile, ma ovviamente non vale per tutti i servizi. Ho fatto l'esempio della spazzatura perché mi immagino la casa di quello che ha pagato pulita e quello che non ha pagato con il mucchio di spazzatura davanti, non credo, no, che vada così. Quindi vorrei sapere, in un caso ancora più delicato e più grave come quello di discriminare dei bambini, perché la discriminazione c'è e non stiamo a raccontarcela, perché chiunque abbia dei bambini e lavori nella scuola sa che se ci sono 40, fra l'altro io sapevo che erano 13, ma se sono meno è ancora più grave, perché sono ancora una minoranza, un gruppetto piccola. Un gruppetto cos'è? Un gruppetto allora, il bambino che si ritrova il panino invece che tutto il menù completo, che c'ha invece il compagno a fianco, come si sente? Come si sente il compagno stesso che c'ha il pasto completo e guarda il bambino che invece ha il pasto ridotto? Io non lo so, tutte queste considerazioni spero che le abbiano fatte. Ma le avranno fatte, sindaco? Cioè, la questione è questa, sindaco, cioè ci sono tanti strumenti per raccogliere, voi le avete provate tutte, però la questione di arrivare poi a colpire in qualche modo il bambino e dire, effettivamente il bambino si sarà chiesto, ma perché io devo avere il panino? Cioè vai a spiegare al bambino che suo padre non paga la retta, non lo sa, il bambino in quel momento dice, ma io c'ho un panino e quello a fianco invece c'ha tutto il pasto completo, che sono io, uno sfigato, un diverso, sindaco? Ma certo, queste sono tutte riflessioni che noi abbiamo fatto, guardi, io non mi nascondo dietro un dito, sicuramente anche in giunta questa scelta è stata una scelta sofferta, non è stata una scelta presa a cuor leggero, gran parte degli assessori della mia giunta hanno bambini che frequentano le scuole, i miei colleghi consiglieri sono nella stessa situazione. Il problema però è diverso, mi scusi, la signora Ballestra continua a mettere la questione in una posizione che non è quella corretta. Allora, il servizio di smaltimento dei rifiuti è un servizio obbligatorio e da noi è una tassa e non è una tariffa, e quindi devo procedere quando c'è un'insolvenza con le procedure previste. In questo caso siamo davanti a un servizio a domanda individuale, io non posso obbligare un soggetto pistola alla tempia a usufruire del servizio mensa, perché questo non è previsto dalla legge. Però se ne vuole usufruire paghi. Cioè, però se ne vuole usufruire deve pagare, c'è un contratto da sottoscrivere, il contratto è un contratto tra le parti, allora se ci sono problemi di carattere economico familiare siamo assolutamente disponibili a prendere in considerazione forme di dilazione di pagamento, cosa che abbiamo peraltro detto alle famiglie, e ripetuto. E invece però non hanno insistito. Si fermi un attimo, sindaco, devo dare le informazioni sul traffico, ma da qui ripartiamo. Insomma, il sindaco chiaramente dice è una cosa volontaria. Io effettivamente questa domanda me la chiedo anche, ma questi furbetti di genitori, siamo un po' il paese, no, dai famosi furbetti del quartiere, ma perché non pagate la mensa, voglio dire, ma soprattutto se avete i soldi, se avete la possibilità di pagare. Poi gli scandali escono quando poi emergono queste situazioni estreme e limite. Allora, le 8:47 minuti, diamo spazio a qualche ascoltatore all'80024 0024. Antonio da Salerno, buongiorno. Buongiorno. Che ne pensa di questa vicenda? Semplicemente che io sono abbastanza in linea con quanto ha fatto il sindaco. Io mi chiedo, ma perché che ogni volta in Italia c'è qualcuno che cerca di far rispettare una regola che non viene rispettata dai soliti furbetti, c'è qualcun altro che dice, ah vabbè, ma perché questi e compagnia belli, questi tanto di persone che non pagano da marzo un servizio che è stato richiesto, non è obbligatorio, non è una cosa che ti viene imposta. Sì, come ci ha spiegato. E quindi perché non pagano? Perché non paghi? Che rispetto hai, puoi pretendere dai tuoi figli, visto che tu te ne freghi? Giusto per essere precisi. Bella domanda, grazie Antonio. Voglio andare a Milano da Dario, buongiorno. Buongiorno Milan, buongiorno a tutti. Senta, io sono anch'io d'accordo con l'ascoltatore di Salerno e soprattutto con il sindaco. Faccio una premessa: io non ho mai votato a sinistra, difendevo la Lega quando ha preso quella posizione e adesso difendo questo sindaco perché trovo che sia una posizione giusta. Non è che il sindaco ha previsto solo il pagamento e basta. Per chi ha necessità ci sono delle riduzioni del 50, del 25 e se le necessità sono l'esenzione totale, certo. Anche esenzione totale. Poi io faccio una domanda. Questo bisogna pagarlo. Probabilmente le stesse famiglie che decidono di auto non pagare, perché lo decidono loro di essere esenti da questo pagamento, quando vanno a fare la ricarica del telefonino per magari parlare con l'amica, l'amichetto, che non sempre la ricarica del telefonino è necessaria, se non gli dai i 20 euro chi ti fa la ricarica non ti ricarica il telefonino, ma questo quelli sei costretto a pagarli e li paghi, gli altri la fai diventare una situazione sociale. Ah, io non posso, io non lo faccio, lo decidi te. No, ma su questo Dario siamo d'accordo. Il problema qui non è che il sindaco pretenda un qualcosa che, per il quale non ha pretese. Cioè il sindaco dal punto di vista legale, cioè di ottenere dei soldi che le persone devono pagare, non fa una grinza. Qui si contesta, e mi pare di capire, no, Ballestra, il fatto di arrivare all'estremo problema, estremo rimedio, cioè di andare a fare questa cosa sui bimbi. Allora io vedo serpeggiare una profonda ignoranza. Il tempo della mensa, anche se la mensa è un servizio che si sceglie individualmente, è un tempo scuola. Quelle due ore che i bambini passano a mensa fanno parte del tempo scuola, vuol dire che in quelle due ore si fa educazione alimentare e si insegna ai bambini a convivere anche in situazioni, diciamo, extradidattiche di socializzazione. Questo deve essere chiaro a tutti, quindi è un servizio che si sceglie individualmente, ma che se proprio vogliamo radicalizzare la discussione, forse andrebbe addirittura pagato dalla scuola in un paese civile, se inteso così. Comunque lo paghiamo noi famiglie, come paghiamo tutto il resto, le forniture per la scuola, la carta igienica, il sapone, come ben si sa e come ben è stato raccontato in questi anni. Adesso non so, la situazione è cessata, parlo per Milano e quindi so di cosa parlo. Aperta e chiusa parentesi, nessuno ha mai detto che il comune non debba riscuotere giustamente le cifre che deve riscuotere. Io non l'ho mai sostenuto e non lo penso, e quindi non è questa la questione. Semplicemente si dice che bisogna seguire altre vie, altre strade, appunto come quando si fanno le multe, arriva l'Equitalia e ti fa pagare. Ma il sindaco un po' di da questo punto di vista, il sindaco della Rovere un pochino di imbarazzo ce l'ha confessato, cioè a dire è stata una discussione in giunta, cioè arrivare a questa estrema soluzione di mettere i bambini con il pasto alternativo ha creato un po' di scompiglio, no Ballestra? Questo almeno ha creato scompiglio, infatti vedo che hanno fatto marcia indietro. Vorrei anche aggiungere una cosa: io credo alla buona fede quando si dice che le famiglie insolventi, insomma, i mezzi ce l'avrebbero, perché il paese è piccolo e quindi credo che si conoscano tutti e probabilmente ci sono anche delle situazioni particolari. Io non metto in dubbio che ci siano i furbetti, però qualsiasi, come dire, furbetto o anche criminale, non so, o delinquente, insomma, dovrebbe rispondere lui, non far pagare ai bambini, che sono le persone che hanno meno potere al mondo, che non hanno i soldi, che non votano, che non hanno nessun mezzo per far valere i loro diritti. Quindi mi sembra proprio che piace un po' vincere facile, perché si va piace a vincere proprio la fascia più debole. Allora, vediamo, a parte questo imbarazzo del sindaco, vorrei andare a Siracusa da Riccardo. Riccardo, buongiorno. Carlo, buongiorno, mi scusi. Carlo, dica. Buongiorno, sono, dicevo, il titolare di un asilo privato. Noi avevamo lo stesso problema sia per i pasti che per il servizio piscina. Abbiamo dovuto risolvere quello dei pasti in modo drastico, è stato inserirlo nella retta, perché altrimenti succedeva quello di cui stiamo discutendo. È chiaro che la rete è aumentata, però a questo punto tutti la pagano, è compreso il pasto, chi non lo vuole o non lo mangia, pazienza, paga per niente. Chi ritira il bambino prima dell'orario, evidente che non ha il pasto, ma questo perché va a casa. mentre per la piscina siamo rimasti al facoltativo e è meno delicato però il problema, perché vedere o no un bambino che va in piscina per il compagno non è così grave come vederlo mangiare o no, anche se anche in quel caso qualcuno si chiederà perché loro vanno in piscina e io no. Però questo però capita, non è un mondo in cui tutti vengono trattati allo stesso modo. Sindaco della Rovere, chi sono queste famiglie che non pagavano? Cioè, visto che appunto il paese è piccolo, la gente mormora e tutti vi conoscete, cioè, sono gente che veramente non aveva i soldi o facevano i furbetti? Allora, c'è sicuramente un mix delle cose. C'è chi fa il furbetto e chi ha problemi, può aver avuto problemi nel corso dell'ultimo anno. Noi quello che abbiamo voluto sollecitare, ma l'abbiamo fatto più volte, abbiamo mandato 4 lettere, abbiamo fatto telefonate, abbiamo mandato sms, sostanzialmente era quello di dire: vabbè, hai un problema, vieni, ne parliamo, troviamo una soluzione. Quello che non ti autorizziamo a fare è un'autoriduzione. Questo è il tema di fondo. Allora, mi permetta solo un piccolo aggancio con quello che diceva la signora Ballestra, sul quale sono assolutamente d'accordo. Allora, se è vero, come è vero, che la mensa è tempo scuola, e questo vale però solo per chi ha il tempo pieno, non per chi ha il tempo modulo e per chi va alle medie, allora facciamo diventare questa cosa obbligatoria, troviamo una forma insieme per riuscire a risolvere il problema delle insolvenze, e per noi non c'è nessun problema, per noi fare un passo in più, un passo in meno non cambia nulla. La cosa che mi ha sconvolto un po' di tutta questa polemica che è montata in questi giorni è che mentre noi, perché non si è vista sotto questo profilo, mentre noi comunque abbiamo garantito un minimo, scusatemi il termine, un minimo sindacale al bambino, ci sono altre realtà, diversi comuni d'Italia, che a fronte del mancato pagamento tirano giù la torcinesca e dicono: voi invece il minimo sindacale. Voglio chiudere con questa frase: voi avete garantito il panino e il succo, il minimo sindacale del pasto. Io vi devo salutare perché devo chiudere. Ringrazio comunque Roberto Della Rovere, sindaco di Cesate del Partito Democratico, e Silvia Ballestra, scrittrice, giornalista, che è stata con noi. Continuiamo su Facebook 24 Mattino la discussione con Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi in redazione. Peter Bescapè in regia. Vi aspettiamo domani alle 7:20.